presa, te lo giuro sui Bee Gees, un'altra volta. La faccio finita, è meglio sparire, zot. Vi lascio la fotografia, baciavo la Carrà. La faccio finita e fammi il piacere. Cosa dovrei dire io? M'han sorpreso con Mina. Ruba una bici e andiamo, chi lo sa. La prendo sul serio, sai. Fuggiamo la grande, fuggiamo da star. Si parte stasera, è meglio domani. Guardiamo la partita, so già com'è finita. E allora? E con la bici fuggiamo e chi lo sa. Si parte sul serio, dai. Partiamo alla grande, partiamo da star. Sotto questo sole è bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatore. Neanche da bere sotto questo sole è bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatore. Neanche da bere. Allora so io cosa facciamo. Facciamo che andiamo. C'è gente che ha pagato, non può finire qui. Ci stanno chiamando, bacini, dai si va. Aspetta un momento, quella in prima fila mi ha guardato, ci sta. Sotto questo sole è bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone. Neanche da bere sotto questo sole.